C'è un insomma, recente contributo di Walter Paternesi Melone e Antonella Spirati dell'Università Roma 3, apparso su economiaepolitica.it, che ci fa vedere dati alla mano, quindi insomma, andando a mostrarci dal 2012 fino ad oggi come si sono evolute tutte le componenti principali del bilancio pubblico, che l'Italia ha registrato in corrispondenza appunto della diminuzione del prodotto interno lordo avvenuta dopo il 2011, quindi non tanto la prima crisi, quella legata ai mutui subprime, ma la seconda crisi, quindi quella legata al debito sovrano europeo. Ecco, in questo periodo c'è stata una diminuzione del PIL notevole e in corrispondenza di questo una sensibile diminuzione di tutte quelle componenti di spesa che invece solitamente all'interno di un periodo di recessione vanno ad aumentare. Infatti normalmente e anche precedentemente, quindi anche nella fase diciamo che andava dal 2009 al 2011, in corrispondenza della crisi sono entrati in gioco quelli che in economia si chiamano stabilizzatori automatici, cioè il fatto che quando le persone vengono licenziate normalmente aumenta la spesa per sussidi di disoccupazione, per cassa integrazione, al contempo diminuisce il gettito fiscale legato al reddito e ai consumi, quindi diminuisce l'IVA, diminuisce il gettito dell'IRAP e dell'IRPEF. E normalmente tutto ciò fa sì che il disavanzo pubblico, cioè la differenza annuale tra spesa e tasse, aumenti in una fase di crisi, proprio perché diciamo, si cerca di non interrompere questo processo in cui il bilancio pubblico assorbe i problemi legati all'economia privata. Questo, come ci mostrano appunto i due economisti di Roma 3, in realtà non è accaduto dal 2012 proprio perché innanzitutto si cercava di trovare soldi a fronte del fatto che bisognava pagare una quota interesse superiore, questo prima che arrivasse la famosa dichiarazione di Mario Draghi secondo la quale la BCE avrebbe fatto tutto ciò che era in suo potere per salvare l'euro, ma poi anche per l'applicazione proprio insomma programmata di quella che tutti noi conosciamo essere comunque come l'austerità, cioè il fatto che sia la spesa per investimenti, che naturalmente è la componente più semplice in qualche modo su cui intervenire perché si tratta di investimenti programmati, ma anche la spesa per sanità e istruzione e quella legata alle più in generale alla protezione sociale sono diminuite in questo periodo. Quella per la protezione sociale è aumentata molto meno di quanto solitamente aumenta all'interno di un periodo di crisi, proprio perché c'è stata una compensazione dovuta alla riforma per esempio pensionistica la Monti-Fornero del 2012, che ha molto ridotto la spesa, l'esborso dello Stato per le prestazioni assistenziali e previdenziali. Ma poi c'è stato anche un sensibile aumento in termini reali, quindi in termini di miliardi di euro calcolati a prezzi costanti, di tutte le componenti del gettito fiscale, in parte diciamo a seguito della lotta all'evasione, ma soprattutto anche dovuto al fatto che sono state incrementate ad esempio le aliquote IVA, che come è noto in qualche modo ormai insomma sia nella letteratura che anche nell'esperienza pratica, è una tassa molto regressiva perché tutte le classi sociali la pagano diciamo allo stesso modo. E soprattutto l'aspetto su cui questo contributo si sofferma ed è molto importante diciamo da tenere a mente in una fase in cui non stiamo applicando ancora l'austerity diciamo come veniva applicata nel 2012, ma diciamo se il quadro politico dovesse configurare un governo che è fortemente diciamo legato all'egida di Bruxelles, si potrebbe ritornare in quello scenario. Ecco, quando l'economia si trova in uno stato o di recessione o comunque di stagnazione, i moltiplicatori fiscali, cioè come dire, la quantità di reddito prodotta da un aumento di un euro, ad esempio, della spesa pubblica, ma anche la quantità di reddito che diminuisce quando tagliamo di un euro quella stessa spesa, sono molto più alti. E per questa ragione, appunto, i due ricercatori calcolano che di fatto l'impatto sul rapporto debito-PIL è stato molto più elevato di quanto i policy makers si attendevano all'inizio. Infatti il rapporto debito-PIL, come ormai tutti sanno del resto, è aumentato dal 116% al 132% nel periodo che va dal 2012 ad oggi, mentre invece diciamo, l'obiettivo primario di queste politiche era proprio il fatto che questo rapporto dovesse diminuire, in parte perché questi moltiplicatori, cioè queste stime di quanto il bilancio pubblico impatta sul reddito nazionale, erano state molto sottovalutate. Quindi questo contributo ci ricorda in realtà quanto sia importante e delicata la gestione delle finanze pubbliche, una gestione che non sia improntata alla metafora in qualche modo secondo cui lo Stato è un buon padre di famiglia, proprio perché in realtà le cose stanno diversamente. Certo, e a questo punto tra l'altro bisogna anche evitare di rovesciare il ragionamento, spesso come dire noi giornalisti contribuiamo a dare un'analisi sbagliata o a come dire riverberare un'analisi sbagliata, no, se cresce il rapporto debito-PIL non dobbiamo quindi pensare che è perché non abbiamo applicato l'austerity. Esatto, perché come dire, se la dinamica all'interno di quella frazione del denominatore è veramente molto importante, nel senso che anche quando il debito cresce magari in valore assoluto, se il prodotto interno lordo cresce più rapidamente di quanto ad esempio si sia tagliato il debito, a quel punto allora significa che c'è stata una politica che ha funzionato per la crescita. Ma se invece quello che succede è che si tenta di ridurre il debito e il PIL si riduce più velocemente del debito, perché magari quei tagli alla spesa che vengono effettuati o quegli aumenti di tasse colpiscono in maniera sensibile i consumi e gli investimenti, beh, a quel punto diciamo un aumento del rapporto può essere benissimo figlio di una politica di austerity piuttosto che di espansione del debito e del deficit. Certo, e quindi insomma questo serva da monito anche per la politica, se appunto le forze politiche non riusciranno a formare un governo e si andrà, come dicevi prima, verso un governo del presidente, un governo istituzionale, insomma tanti nomi che vengono dati, attenzione alle misure che proponiamo. Sì, anche perché appunto, come ricordavamo qualche tempo fa, secondo quelle che sono le stime della Commissione europea, diciamo l'Italia in questa fase avrebbe terminato il suo ciclo espansivo e dovremmo, diciamo, secondo quelle che sono le stime di Bruxelles, da ora in poi, come dire, stringere la cintura, mentre quello che ci mostra questo contributo di cui abbiamo parlato oggi, così come anche tutti i dati sulla disoccupazione, è che in realtà ci sarebbe ancora moltissimo da fare.